America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, ne parlavo poco fa, a effetto giorno, il figlio di Donald Trump Jr., si è incontrato nel 2016 in piena campagna elettorale con Natalia Vezhelnitskaya, un'avvocatessa russa vicina al Cremlino, per avere informazioni imbarazzanti sulla Clinton. Ecco, devo dire, non è normale incontrarsi con chi rappresenta un governo straniero per avere questo tipo di informazioni. E dunque, per l'inchiesta sul Russiagate, è una svolta. È il primo contatto diretto fra un membro della famiglia Trump e l'operazione di disturbo elettorale organizzata, sembra, direttamente da Vladimir Putin. Ma oggi vorrei restare su Mosul, sulla caduta di Mosul e sugli sviluppi mediorientali. Sentiamo. Ecco, dai salotti ovattati del G20 di Amburgo, dalla politica che ha discusso di Medio Oriente, al fronte. Perché dobbiamo chiedercelo, cosa succede, dove si combatte? Ne parlo con Francesco Semprini, corrispondente della stampa a New York, ma soprattutto inviato di guerra, che era a Mosul proprio negli ultimi giorni dell'assedio. Buongiorno Francesco. Buongiorno Mario. Ma allora Francesco, ma tu hai anche una figlia, ma come ti viene in mente di andare in guerra, di andare al fronte? Basta! È come una bella ragazza, è un'attrazione che è assolutamente irresistibile, quindi per me era come chiudere un cerchio, perché io ero a Mosul 3 anni fa quando cadde appunto la città nelle mani degli jihadisti di Abu Bakr al-Baghdadi, e per me era doveroso tornare per raccontare come gli stessi jihadisti sono stati cacciati dalle forze irachene. Ecco, e quindi questo cerchio si è chiuso davvero a questo punto, perché tu eri nei combattimenti, eri lì al fronte. Assolutamente sì, ero al fronte, ero, e questo anche un po' è stato fortuito, ero lì quando è iniziata l'ultima offensiva, quella decisiva, nella città vecchia di Mosul, dove si erano asserragliati gli ultimi jihadisti, l'ultimo manipolo di jihadisti, 200-300 bandiere nere, che appunto, soprattutto aiutate dal fatto di avere ostaggi usati come scudi umani, hanno resistito fino all'ultimo agli attacchi delle forze irachene e, ricordiamo, agli attacchi aerei della coalizione a guida americana. Raccontaci come tu arrivi a Mosul, trovi i contatti, perché ci sono delle precauzioni che si devono prendere. La guerra così avrà questa attrazione come fosse una bella ragazza, però bisogna stare attenti perché anche le belle ragazze possono pungere. Assolutamente sì, hai pienamente ragione. Infatti non sono trasferte qualunque, ma sono trasferte che devono essere organizzate per tempo e con i giusti modi, con i giusti agganci, con i giusti contatti. E quali sono i giusti contatti? Si parte da una prima presa di contatti con le nostre rappresentanze diplomatiche, dopodiché si passa a quelli che sono i militari italiani. Noi abbiamo un contingente che è schierato nei pressi di Mosul a difesa della diga e che si adopera nell'addestramento dei peshmerga, i guerrieri curdi. Dopodiché sono loro da fare spesso ponte con le autorità militari americane e con quelle del posto. Ecco, quando si iniziano ad avere contatti con le forze militari irachene, lì si entra nel vivo della missione. Ecco, e a quel punto cosa succede? Come funziona la tua giornata? Avere un sonno regolare è già un'impresa, quindi insomma si parte dal fatto che sia un sonno molto limitato come numero di ore e anche come insomma profondità, visto che si è in una zona di guerra, non si è di animo troppo sereno. I momenti di normalità si ritagliano con un caffè, ma questo è forse l'unica cosa che ci si può regalare in quelle zone. Dopodiché il cammino inizia accompagnati sempre da un fixer, che sarebbe questa persona del posto che ci fa da guida, da traduttore, da accompagnatore, ed è lui che ci porta nelle prime linee dove raggiungiamo le unità, le divisioni, le forze speciali, in particolare irachene, con cui siamo stati, che ci embeddano, come si dice in gergo, cioè noi viviamo come vivono i militari. Facciamo tutto quello che fanno i militari fuorché sparare e siamo esposti agli stessi rischi fondamentalmente degli stessi militari. E non sono rischi da poco, sentiamo. Ecco, come avete sentito, non sono rischi da poco per nulla, perché qui mi pare a Mosul esplode una bomba e dopodiché c'è una sparatoria. Ecco, cos'è successo? Noi eravamo all'interno di una casamatta, di una di queste case in macerie che vengono utilizzati come avamposti dai soldati. Volevamo salire sul tetto di questa casa perché era il punto privilegiato per fotografare la famosa moschea di Al-Nuri, la moschea dove Abu Bakr al-Baghdadi dichiarò la nascita del califfato nel 2014. Proprio mentre salivamo accompagnati dai militari su questa terrazza, terrazza, c'è stato un bombardamento, ovviamente un bombardamento alleato, ma che aveva come obiettivo dei palazzi che erano molto vicini a noi. Ovviamente il botto, lo avete sentito, è stato notevole, ma anche tutto ciò che ne è seguito, perché a questi attacchi poi seguono una serie di sparatorie e di scambi di fuoco. Beh, perché lì esplode di tutto. L'attacco alleato di chi? Gli alleati americani, quindi, che hanno bombardato? Della coalizione a guida americana che ha... Ma era un attacco coordinato? C'è stato un bombardamento per aiutare il fronte avanzato degli anti-ISIS ad avanzare? Assolutamente sì. Io ho avuto anche la possibilità di entrare nella war room degli americani, cioè la cabina di regia dove gli americani insieme agli iracheni coordinano le attività di terra con le attività dall'alto. Ebbene, questi sono, diciamo così, attacchi, sono raid che in qualche modo hanno come obiettivo o quello di neutralizzare delle posizioni di cecchini nemici o in qualche modo di coprire l'avanzata delle forze di terra. E a quel punto bombardamento, sparatoria, agitazione, e tu che sei lì in mezzo a questi spari, ecco, cosa pensi in quel momento? Ma il primo pensiero è quello di tenere la telecamera in mano più fissa possibile, cioè di farla tremare di meno possibile, anche perché non è una scena di un film. Quindi che non è di buttarti in un angolo e nasconderti? Assolutamente no. Forse il pensiero maggiore, la preoccupazione maggiore sia dopo, quando si riguardano quelle immagini, allora sì che sia un po' di... Scusa Francesco, piccola parentesi, devo dirvi che Francesco Semprini, lo avete sentito da come ha raccontato questa storia, è meritevole di molti premi, ma un premio l'ha avuto dall'Associazione dei Corrispondenti delle Nazioni Unite nel 2014, quando è stato premiato proprio per essere stato alla presa di Mosul. E dunque speriamo che ne arrivino di altri di premi, perché non è che ce ne sono tanti di giornalisti italiani che vanno in giro. Ecco, c'erano altri colleghi italiani, eravate in gruppo, c'erano colleghi americani, come ci si muoveva? No, devo dire che io ero l'unico giornalista italiano presente in quel momento a Mosul. Altri colleghi sono arrivati successivamente. Io ho condiviso questa mia esperienza con un fotografo neozelandese molto bravo e anche molto molto coraggioso. E questo vorrei spendere appunto una parola in favore di questi freelance, di questi fotografi che spesso poco remunerati si spingono in zone ad elevatissimo rischio pur di riuscire a portare a casa lo scatto perfetto. Allora, ma il bug a questo punto è più calmo o prima o poi vorrai tornare al fronte? Beh, insomma, io sono stato a Sirte, ho visto la liberazione di Sirte, sono stato a Mosul, ho visto la liberazione di Mosul, adesso manca Raqqa, e quindi posso così magari scrivere un libro sulla liberazione delle tre capitali del califfato. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!